Ad alta voce. Piero Baldini legge Il piacere di Gabriele D'Annunzio. In quelle mani incomparabili, morbide e bianche, d'una trasparenza ideale, segnate d'una trama di vene glauche, appena visibili, in quelle palme un poco incavate, ombreggiate di rose, ove un chiromante avrebbe trovato oscuri intrichi, avevano bevuto 10, 15, 20 uomini, l'un dopo l'altro, a prezzo. Egli vedeva le teste di quegli uomini sconosciuti chinarsi e suggere il vino, ma Galeazzo Secinaro era uno dei suoi amici, bello e gagliardo signore, imperialmente barbato come un lucio vero, rivale temibile. Donna Francesca si levò. Tutti la imitarono. Andrea offerse il braccio a Elena inchinandosi, ed ella lo guardò senza sorridere, mentre posava il braccio nudo su quello di lui lentamente. «Andate?» ella gli chiese. «Andate domani sera al ballo dell'ambasciata di Francia?» «E voi?» chiese a sua volta Andrea. «Io sì». «Io sì». Sorrisero come due amanti, ed ella soggiunse mentre sedeva. «Sedete». Il divano era discosto dal caminetto, lungo la coda del pianoforte, che le pieghe ricche di una stoffa celavano in parte. Egli guardò le braccia di Elena, scoperte insino alla spalla. Erano così perfette nell'appiccatura e nella forma, che richiamavano la similitudine fiorenzolesca del verso antico «di mano di buon maestro», e tali dovevano essere quelle di Pallade quando era innanzi al pastore. «Voi, se non erro», disse Andrea involgendo lei del suo sguardo come d'una fiamma, «dovete avere il corpo della Dana e del Correggio, lo sento, anzi lo veggo dalla forma delle vostre mani. Oh, Petrelli! Immaginate voi dal fiore la intera figura della pianta. Voi siete certo come la figlia d'Acrisio che riceve la nuvola d'oro, non quella della fiera di maggio, ibò. Conoscete il quadro della Galleria Borghese? Lo conosco. Mi sono ingannato. Basta, Sperelli, vi prego. Perché? Ella tacque. Ormai ambedue sentivano avvicinarsi il cerchio che doveva chiuderli e stringerli insieme, rapidamente. Nell'una nell'altro avevano coscienza di quella rapidità. Dopo 2 o 3 ore dal primo vedersi, già l'una si dava all'altro in ispirito, e la scambievole dedizione pareva naturale. Ella disse dopo un intervallo senza guardarlo: «Siete molto giovane, avete già molto amato». Egli rispose con un'altra domanda: «Credete voi che ci sia più nobiltà di animo e di arte ad immaginare in una sola unica donna tutto l'eterno femminino, oppure che un uomo di spiriti sottili ed intensi debba percorrere tutte le labbra che passano, come le note di un clavicembalo ideale, finché trovi l'ut gaudioso?» «Io non so». «E voi?» «Neanche io so risolvere il gran dubbio sentimentale, ma per istinto ho percorso il clavicembalo e temo d'aver trovato l'ut, a giudicarne almeno dall'avvertimento interiore». Egli parlava con naturalezza, col linguaggio manierato, quasi estenuando nell'artificio delle parole la forza del suo sentimento, ed Elena si sentiva dalla voce di lui prendere come in una rete e trarre fuori della vita che muovevasi attorno. Il gruppo maggiore, tutto composto di uomini, stava presso il pianoforte. Intorno la duchessa di Scerni, che era si levata in piedi per tener testa a quella specie d'assalto. La Ferentino si avvicinò a salutare l'amica con un rimprovero. «Perché non sei venuta oggi da Nenì Santa Marta? Ti aspettavamo». Ella era alta e magra, con due strani occhi verdi che parevano lontani in fondo alle occhiaie oscure. Vestiva di nero, con una scollatura a punta sul petto e sulle spalle. Portava tra i capelli di un biondo cinereo una gran mezzaluna di brillanti, a somiglianza di Diana, e agitava un gran ventaglio di piume rosse, con gesti repentini. Ninì va stasera da Madame Van Huffel. Anch'io andrò più tardi per un poco, disse la Muti. La vedrò. Oh, Genta, fece la principessa volgendosi ad Andrea, vi cercavo per rammentarvi il vostro appuntamento. Domani è giovedì. La vendita del cardinale Immerret comincia domani a mezzogiorno. Venite a prendermi a luna. Non mancherò, principessa. Bisogna che io porti via quel cristallo di rocca ad ogni costo. Avrete però qualche competitrice. Chi? Mia cugina. E poi? Me? Disse la Muti. Te? Vedremo. I cavalieri intorno chiedevano schiarimenti. Una contesa di dame del XIX secolo per un vaso di cristallo di rocca, già appartenuto a Niccolò Niccoli, sul qual vaso è intagliato il troiano Anchise che scioglie onde calzari di Venere e Afrodite, annunziò solennemente Andrea Sperelli. Lo spettacolo è dato per grazia domani dopo la prima ora del pomeriggio nelle sale delle vendite pubbliche in via Sistina. Contendono la principessa di Ferentino, la duchessa di Scerni, la marchesa d'Ateleta. Tutti ridevano a quel bando. La notizia della contesa si spargeva rapidamente. Prendeva le proporzioni di un avvenimento mondano. Occupava tutti i belli spiriti. Datemi il braccio e facciamo un giro, disse donna Elena Muti ad Andrea. Ella teneva il braccio destro abbandonato lungo la veste, reggendo nella mano il ventaglio e i guanti. Non porgeva più la mano ai salutatori, ai lusingatori, né dava più ascolto ad alcuno. «Che avete ora?» le chiese Andrea. «Nulla. Bisogna che io vada dalla Van Huffel. Conducetemi a salutare Francesca e poi accompagnatemi fin giù alla mia carrozza». Tornarono nel primo salone. Luigi Gulli, un giovane maestro venuto dalle natali Calabrie in cerca di fortuna, nero e crespo come un arabo, eseguiva con molta anima la sonata in do diesis minore di Ludovico Beethoven. La marchesa d'Ateleta, che era una sua protettrice, stava in piedi accanto al pianoforte, guardando la tastiera. A poco la musica grave e soave prendeva tutti quei leggeri spiriti nei suoi cerchi, come un gorgo tardo, ma profondo. «Beethoven», disse Elena, con un accento quasi religioso, arrestandosi e sciogliendo il suo braccio da quello di Andrea. «Ella sarà mia», pensava con una specie di ebrietà, poiché la musica patetica gli aumentava l'eccitamento. «Ella mi terrà fra le sue braccia, sul suo cuore». Immaginò di chinarsi e di posare la bocca sulla spalla di lei. Gli giungeva il profumo di lei, una emanazione indefinibile, fresca, ma pur vertiginosa, come un vapore d'aromati. Tutto il suo essere insorgeva e tendeva con smisurata veemenza verso la stupenda creatura. Egli avrebbe voluto involgerla, attrarla entro di sé, suggerla, beverla, possederla in un qualche modo sovrumano. Così ebbe principio l'avventura di Andrea Sperelli con donna Elena Muti. Il giorno dopo le sale delle vendite pubbliche in via Sistina erano piene di gente elegante venuta per assistere all'annunziata contesa. Quando Andrea Sperelli entrò accompagnando la principessa di Ferentino, ebbe un segreto tremito, pensò. Sarà già venuta, e i suoi occhi rapidamente la cercarono. Ella la cercava. Sedeva innanzi al banco, tra il cavaliere D'Avila e Don Filippo del Monte. aveva posato sull'orlo del banco i guanti e il manicotto di lontra, da cui usciva fuori un mazzo di violette. Teneva fra le dita un quadretto d'argento attribuito a Caradosso Foppa e l'osservava con molta attenzione. Gli oggetti passavano di mano in mano lungo il banco. Il perito ne faceva le lodi ad alta voce. Le persone in piedi dietro la fila delle sedie si chinavano per guardare. Quindi incominciava l'incanto. Le cifre si seguivano rapidamente. Ad ogni tratto il perito gridava: «Si delibera! Si delibera!» Qualche amatore, incitato dal grido, gittava una più alta cifra, guardando gli avversari. Il perito gridava con alzato il martello: «Uno! Due! Tre!» E percuoteva il banco. L'oggetto apparteneva all'ultimo offerente. Un mormorio si propagava intorno. Poi, di nuovo, accendevasi la gara. Il cavaliere Davila, un gentiluomo napoletano che aveva forme gigantesche e maniere quasi femminee, celebre raccoglitore e conoscitor di maioliche, dava il suo giudizio su ciascun pezzo importante. Tre, veramente, in quella vendita cardinalizia erano le cose superiori. La storia di Narcisso, la tazza di cristallo di Rocca e un elmo d'argento cesellato da Antonio del Pollaiuolo che la signoria di Firenze donò al conte d'Urbino nel 1472 in ricompensa dei servigi da lui resi nel tempo della presa di Volterra. «Ecco la principessa!» disse don Filippo del Monte alla Muti. La Muti si levò per salutare l'amica. «Di già sul campo?» esclamò la Ferentino. «Di già.» «E Francesca?» «Non è ancor giunta.» Donna Elena porse la mano allo Sperelli, francamente, come ad ognuno. Egli si sentì da quella stretta di mano allontanare. Elena gli parve fredda e grave. Tutti i suoi sogni s'agghiacciarono e precipitarono in un attimo. I ricordi della sera innanzi si confusero. Le speranze si estinsero. Che aveva ella? Non era più la donna medesima. Vestiva una specie di lunga tunica di lontra e portava in capo una specie di tocco anche di lontra. Aveva nell'espressione del volto qualche cosa di aspro e quasi disprezzante. «C'è ancora tempo alla tazza?» e la disse alla principessa e si rimise a sedere. Ogni oggetto passava per le sue mani. Un centauro intagliato in un sardonio, opera assai fina, forse proveniente dal disperso museo di Lorenzo il Magnifico, la tentò ed ella prese parte alla gara. Comunicava la sua offerta al perito a voce bassa, senza levare gli occhi su di lui. A un certo punto i competitori si arrestarono. Ella ottenne la pietra a buon prezzo. «A questo eccellente», disse Andrea Sperelli, che stava in piedi dietro la sedia di lei. Elena non poté trattenere un lieve sussulto. Prese il sardonio e lo diede a vedere, levando la mano all'altezza della spalla, senza voltarsi. Era veramente una assai bella cosa. «Potrebbe essere il centauro che Donatello copiò», soggiunse Andrea. E nell'animo di lui, insieme con l'ammirazione per la cosa bella, sorse l'ammirazione per il nobile gusto della dama che ora la possedeva. «Ella è dunque in tutto una eletta», pensò. «Quali piaceri può dare ella a un amante raffinato?» Colei si ingrandiva nella sua immaginazione, ma ingrandendosi sfuggivagli. La gran sicurezza della sera innanzi mutavasi in una specie di scoraggiamento e i dubbi primitivi risorgevano. Egli aveva troppo sognato nella notte, a occhi aperti, nuotando in una felicità senza fine, mentre il ricordo di un gesto, di un sorriso, di un'aria della testa, di una piega del vestito lo prendeva e l'allacciava come una rete. Ora tutto quel mondo immaginario crollava miseramente al contatto della realtà. Egli non aveva visto negli occhi di Elena il singolar saluto a cui aveva tanto pensato. Egli non era stato distinto da lei in mezzo agli altri, con nessun segno. Perché? Si sentiva umiliato. Thank you. Vi consiglio questo orologio, gli disse Elena con uno sguardo di cui egli da prima non comprese la significazione. Era una piccola testa di morto, scolpita nell'avorio, con una straordinaria potenza di imitazione anatomica. Ciascuna mascella portava una fila di diamanti e due rubini scintillavano in fondo alle occhiaie. Sulla fronte era inciso un motto: Ruit ora. Sull'occipite un altro motto: Tibi Ippolita. Il cranio si apriva come una scatola, sebbene la commessura fosse quasi invisibile. L'interior battito del congegno dava a quel teschietto una inesprimibile apparenza di vita. Quel gioiello mortuario, offerta di un artefice misterioso alla sua donna, aveva dovuto segnare le ore dell'ebbrezza e col suo simbolo ammonire gli spiriti amanti. In verità, non poteva il piacere desiderare un più squisito e più incitante misuratore del tempo. Andrea pensò: me lo consiglia ella per noi? E a quel pensiero tutte le speranze rinacquero e risorsero di tra l'incertezza confusamente. Egli si gittò nella gara con una specie di entusiasmo. Gli rispondevano due o tre competitori accaniti, tra cui Giannetto Rutolo, che, avendo per amante donna Ippolita Albonico, era attratto dall'iscrizione Tibi Ippolita. Poco dopo rimasero soli a contendere il Rutolo e lo Sperelli. Le cifre salivano oltre il prezzo reale dell'oggetto, mentre i periti sorridevano. A un certo punto Giannetto Rutolo non rispose più, vinto dall'ostinazione dell'avversario. «Si delibera! Si delibera!» L'amante di donna Ippolita, un poco pallido, gridò un'ultima cifra. Lo Sperelli aumentò. Ci fu un momento di silenzio. Il perito guardava i due competitori, quindi levò il martello con lentezza, sempre guardando. «Uno, due, tre!» La testa di morto rimase al conte Dugenta. Un mormorio si diffuse per la sala. Uno sprazzo di luce entrò per la vetrata e fece splendere i fondi aurei dei trittici, ravvivò la fronte dolente di una Madonna senese e il cappellino grigio della principessa di Ferentino, coperto di scaglie d'acciaio. La duchessa di Cerny si levò per andarsene. «Addio, Sperelli», disse. «A questa sera, forse?» «Perché dite forse?» «Mi sento tanto male. Che avete mai?» Ella, senza rispondere, si volse agli altri, salutando. Ma gli altri seguivano il suo esempio e scivano insieme. Il pensiero di non rivederla gli era insopportabile. Tutte le ore passate lontano da lei già gli pesavano. Egli chiedeva a se stesso: «L'amo io dunque già tanto?» Il suo spirito pareva chiuso in un cerchio entro cui turbinavano confusamente tutti i fantasmi delle sensazioni avute nella presenza di quella donna. Mentre saliva le scale del palazzo Zuccari per rientrare nel suo appartamento, gli balenava questo pensiero. Ella, certo, sarebbe venuta là. La via Sistina, la via Gregoriana, la piazza della Trinità dei Monti, specialmente in certe ore, erano quasi deserte. La casa non era abitata che da stranieri. Ella avrebbe dunque potuto avventurarsi senza timori. Ma come attirarla? La sua impazienza era tanta che gli avrebbe voluto poter dire: «Verrà domani. Ella è libera», pensò. «Non la tiene la vigilanza di un marito. Nessuno può chiederle conto delle assenze, anche lunghe, anche insolite. Ella è padrona d'ogni suo atto, sempre». Gli si presentarono allo spirito subitamente interi giorni e intere notti di voluttà. Si guardò intorno nella stanza calda, profonda, segreta, e quel lusso intenso e raffinato, tutto fatto di arte, gli piacque. Per lei. Quell'aria aspettava il suo respiro, quei tappeti chiedevano d'essere premuti dal suo piede, quei cuscini volevano l'impronta del suo corpo. «Ella amerà la mia casa», pensò. «Amerà le cose che io amo». Il pensiero gli dava una indicibile dolcezza e gli pareva che già un'anima nuova, consapevole della imminente gioia, palpitasse sotto gli alti soffitti. Egli andò a vestirsi nella camera ottagonale che era in verità il più elegante e comodo spogliatoio desiderabile per un giovine signore moderno. Vestendosi aveva un'infinità di minute cure della sua persona. Sopra un gran sarcofago romano, trasformato con molto gusto in una tavola per abbigliamento, erano disposti in ordine i fazzoletti di batista, i guanti da ballo, i portafogli, gli astucci delle sigarette, le fiale delle essenze e 5 o 6 gardenie fresche in piccoli vasi di porcellana azzurra. Egli scelse un fazzoletto con le cifre bianche e ci versò 2 o 3 gocce di Pau Rosa. Non prese alcuna gardenia perché l'avrebbe trovata alla mensa di casa Doria. Empì di sigarette russe un astuccio d'oro martellato, sottilissimo, ornato di uno zaffiro sulla sporgenza della molla, un po' curvo per aderire alla coscia nella tasca dei calzoni. Quindi uscì.